Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di una fabbrica che è morta da 10 anni. Era una gloria del Made in Italy, si chiamava Pagnossin, era vicino a Treviso e produceva delle ceramiche e dei manufatti artistici di elevatissima qualità. Era nota nel mondo, a un certo punto è stata anche un cenacolo di artisti con Dalbò, Malossi e altri importanti soggetti. Poi è stata fusa con la Richard Ginori, è diventata la controllante della Richard Ginori e a un certo punto nel 2007 è morta. Anziché dire viaggio nell'industria che cambia, si potrebbe fare viaggio nell'industria che muore. Ma sulle ceneri della Pagnossin è rimasto uno stabilimento industriale e un'area industriale di rara bellezza, sempre qui alle porte di Treviso, sempre in un'area che è molto interessante dal punto di vista logistico. E c'è un imprenditore della logistica che ha pensato di fare rinascere quell'area e di trasformarlo in un luogo dell'eccellenza del territorio, ma anche un luogo per gli artigiani digitali e quindi di creare occupazione e lavoro in questo modo. Questo imprenditore si chiama Damaso Zanardo, il nostro ospite di oggi. Lui è attivo nella logistica con l'azienda che porta il suo nome. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io non è che quando muoiono le fabbriche e vengono fuori questi musei o questi centri commerciali sia molto contento. Lingotto di Torino trasformato in un centro commerciale a me dà solo tristezza. Io avrei preferito che ci fosse la fabbrica. Tra l'altro a me non sembra manco un luogo bello. Ci sono andato una volta e mi è bastato. Però, insomma, parlando con Zanardo, che spero poi questa roba non finisca nell'ennesimo banale centro commerciale, ecco, parlando con Zanardo sembra invece che sia un'operazione un po' diversa, un po' più complessa e anche un'operazione bella. Ce la vuole raccontare? Innanzitutto questo progetto nasce perché il tema trainante era la logistica, la diceva lei prima, è un'area interessante. Uno scende dall'aeroporto Catullo, attraversa la strada e trova l'area. Sono 100.000 metri quadrati, possono essere estesi con nuove acquisizioni anche a 160.000 metri. È un progetto ambizioso. Quindi è un luogo a 4 km da Treviso, ma allo stesso tempo vicino all'aeroporto? Sì, è un luogo di fronte all'aeroporto, con la ciclabile a 4 km dal Duomo e a 32 km dalla Basilica del Santo di Padova. È interconnesso con tutto questo bellissimo mondo chiamato Green Tour che la Regione Veneto ha attuato proprio in questi giorni. Ecco, ma voi allora, in questo spazio dove una volta c'era una manifattura della ceramica artistica che ci invidiava tutto il mondo, che cosa fate come luogo dell'eccellenza del Veneto? Ci spieghi bene che cosa avviene lì, al di là del centro logistico che è anche riferito alle sue attività che sono di logistica per la sanità e per gli spirits. Ci siamo innamorati delle pietre, di quelle pietre che diceva lei, di questa bellezza architettonica. Abbiamo pensato che queste pietre possono dare risalto alle nostre eccellenze. Le nostre eccellenze sono i prodotti che tutti ci invidiano nel mondo, ma che mal arrivano in giro per il mondo. L'interconnessione logistica che può dare un mezzo veloce quale quella aeroportuale può favorire la presenza non solo di turisti che possono venire a visitare i nostri luoghi ed acquisire questi prodotti, ma anche, diciamo, la spedizione di questi prodotti, un modello di e-commerce in giro per il mondo. Quindi praticamente cercherete di attirare lì il meglio della produzione artigianale del Veneto, i turisti, i giapponesi, i cinesi potranno venire lì e comprare, e voi, anche se viene uno che sta a Tokyo o nel paese sperduto del Giappone, quando torna a casa gli mandate i pacchi con tutto quello che ha preso. Questo è effettivamente il concetto dell'industria 4.0, che non è distante però da una logistica, chiamiamola a questo punto 4.0. Io produco dove posso, però alla fine devo far arrivare il prodotto dove serve. E certamente. Dobbiamo un attimo interromperci per avvisi sul traffico e vari ed eventuali. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Damaso Zanardo, che è il titolare della Zanardo, azienda di logistica per la sanità e per gli spirit, che ha acquisito l'area della ex Pagnossin, un'azienda gloriosa, un'azienda storica della manifattura della ceramica artistica, purtroppo morta nel 2007, e adesso ha un progetto che si chiama Open Dream per ospitare le eccellenze del Veneto da mostrare soprattutto ai turisti internazionali che vengono a comprarle, con in più il valore aggiunto della spedizione anche di grandi quantitativi in tutti i paesi del mondo. Riprenda da dove ci eravamo lasciati prima della pubblicità per raccontarci come funziona. Il modello logistico è un modello che non scopriamo oggi, diciamo che oggi è agevolato perché le catene logistiche delle singole aziende sono riusciti praticamente a passare da grandi volumi a piccoli volumi. Uh-huh. Oggi il concetto della spesa a casa direttamente è un esempio che tutti i cittadini capiscono, ma lo stesso modello, diciamo, ormai viene perpetuato attraverso una catena di vari operatori, uh-huh, anche in distanze molto, diciamo, tra continenti. Il tema importante di questo progetto è un progetto che, come lo dice nel titolo, è open, nel senso che l'Italia purtroppo siamo succubi dell'amministrazione, delle difficoltà di mettere in atto dei progetti, di mettere in atto dei progetti nei tempi in cui il mercato li richiedono. Ma ecco, lei vuole anche portare i cosiddetti artigiani digitali. Beh, noi abbiamo avuto delle richieste oggi in questo momento, abbiamo avuto richieste anche del mondo, quello che definiva lei, i centri commerciali, che in questo momento non abbiamo accolto. Speriamo di no. La ringrazio, è una speranza anche mia ed è un po' lo sforzo che stiamo facendo. E quindi stiamo pensando invece di arricchire questi spazi con la presenza di gente che, oltre alla storia dell'azienda, vengano loro a raccontarsi. E tra questi ci sono questi artigiani. Che sono quelli che usano le stampanti 3D, i cosiddetti makers, ai quali nella prima stagione di questa trasmissione abbiamo anche dedicato qualche puntata. Perfetto, e che vedono appunto nella funzionalità del posto, ma soprattutto, diciamo, anche con l'interconnessione di altre aziende che potrebbero lì, vedono bene la loro cittadella, così l'hanno definita, dove viene dato un servizio da quello che è il mondo della comunicazione fino alla produzione di un prodotto in stampa 3D. Comunque è un vero peccato che la Pagnossin sia morta. Poi adesso faccio una considerazione personale, cioè non è un caso che prima di morire sia passata tra le mani dei Ligresti. Tutto quello che è passato dalle mani dei Ligresti è morto. Io lo raccontavo in un mio libro del 2009, Gli affari di famiglia. Sembrava che facessi un sacrilegio. In realtà, per fortuna che in Italia ci sono decine di migliaia di imprenditori eroi che con i loro sacrifici e con la loro capacità tengono in piedi il paese. Oggi, veramente, per fare l'imprenditore devi essere un eroe, vero? Certamente. Qui apro un inciso perché gli affezionati ascoltatori di questa trasmissione sanno che seguiamo molto il mondo dei robot e soprattutto la scorsa settimana abbiamo segnalato che c'è stato un fortissimo incremento nel primo trimestre del 2017 degli ordinativi di macchine, utensili e robot, cioè la richiesta da parte delle industrie di robot, di macchine utensili, di macchine per la lavorazione della ceramica ha fatto un balzo in avanti anche grazie agli incentivi del pacchetto Calenda. I numeri un po' di tutte le macchine sono stati messi insieme da Luca Orlando in un articolo del Sole di martedì 9 maggio 2017 che segnala un po' tutti i balzi in avanti delle macchine. Pensate, il 60% in più nel primo trimestre di macchine per la lavorazione della ceramica. Per quanto riguarda Federmacchine, più 13% degli ordini interni, e dentro Federmacchine ci sono i robot. Più 5% macchine per il vetro, più 4% organi di trasmissione, tra il 5 e il 10% macchine gomma plastica, più 11% macchine per arti grafiche, più 22% macchine utensili, che sono le più importanti, tra il 15 e il 20% macchinari per le fonderie, più 15-20%, pensate che bello, e più 10% macchine per il packaging. Unico piccolo dato negativo, le macchine per il legno, che hanno fatto purtroppo meno 3%, ma insomma non si può avere tutto dalla vita. Comunque, c'è una forte ripresa degli ordinativi di macchine. Questa è veramente, per il nostro mondo, per il mondo della fabbrica, una notizia importante. Lei che ne pensa? Più 56% di veicoli industriali che servono per trasportare in giro anche le macchine, non solo i prodotti. Ecco, ma tutto questo è legato anche al mondo del 4.0. Siccome lei è un operatore logistico di un certo livello anche di gestione della complessità, secondo lei come deve essere la logistica nel mondo 4.0, nel mondo dell'industria 4.0? La deve accompagnare con investimenti anche noi robot. Noi nel mondo della, quello che citava lei prima, della sanità, ci siamo avventati in questi acquisti. E a settembre installeremo un robot multidirezione con più braccetti che praticamente gestiranno 7500 codici di prodotto, quindi 7500 prodotti di farmaci. Certo. Cosa vuol dire? Che quando il medico la visita all'interno dell'ospedale mentre lei è a letto, automaticamente il suo messaggio del fabbisogno del paziente verrà robotizzato. Certo, perché voi state facendo anche l'automazione degli ospedali, della fornitura di farmaci negli ospedali. Esattamente, quindi la sua prescrizione medica verrà confezionata da questo robot e la sarà riportata direttamente al letto del paziente. A proposito di consegne... E questo lo fa un'azienda di logistica? Questo lo fa un'azienda di logistica, attenzione, acquistando... Mm. O chiedendo magari di fare delle modifiche opportune da aziende che fanno ricerca, ingegneria e costruzione di robot. Ah, interessante. Però vede che è un po' come dicevo io amo andare contro il luogo comune dei robot che distruggono lavoro. Io penso che in realtà, almeno nel breve medio, lo creano e creano lavoro e sono positivi per la nostra economia. In questo caso anche per la salute del paziente, perché il robot ha meno possibilità di sbagliare della casualità umana, insomma. Sì, ma infatti, però, quello che fa venire la rabbia è che se si vanno a vedere, tranne solo 24 ore, i quotidiani, quando c'è un titolo sul robot o quando ci sono dei programmi televisivi sui robot, sempre la solita stupida storia del robot che distrugge lavoro. Ma non è possibile sentire riproporre un luogo comune tanto insensato nei fatti, insensato nei numeri, insensato in tutto. Un luogo comune veramente sciocco, diciamolo. Il robot oggi e l'automazione creano lavoro. Guardi, glielo confermo, perché nel caso mio, per poter sviluppare in questa fabbrica che lei ha definito morta, già 36 posti di lavoro e attendere saremo 80, ma attendere vuol dire da qui a un anno, da un luogo morto, se non passo attraverso la tagliola, da una parte la qualità del servizio e dall'altra parte l'efficienza, e non mi faccio aiutare da strumenti innovativi, non solo di software, ma anche di macchine, quindi di robot, io questa occupazione non l'avrei rigenerata. Ma certamente, ma poi se noi vediamo tutti i dati sugli ordinativi di macchine, e apro una parentesi per dire che è veramente un po' difficile dire che cos'è una macchina e che cos'è un robot, la distinzione è sottile o inesistente, tutti questi ordinativi di macchine vuol dire che le industrie della ceramica o le industrie della fonderia le useranno per produrre più merci e dunque per creare più lavoro. Non solo, il robot permette alle aziende di mantenere la produzione qui. Bravissimo, è di essere competitive in mercati dove il costo del lavoro purtroppo ancora oggi è un fattore troppo differente. Purtroppo dobbiamo terminare, ringrazio Damaso Zanardo, grazie, arrivederci, grazie, a sabato giornata. Prossimo a tutti gli ascoltatori, buona domenica e non dimentichiamolo, viva le fabbriche, viva i robot!